Come promesso, ci colleghiamo con Riace, dove comincia il secondo tempo, l'ho definito perché il primo tempo si è svolto a Bosco Albergati, questa manifestazione antirazzista di WISP, che per il primo anno va in quello che era il comune dell'accoglienza, il luogo simbolo dell'accoglienza, prima che insomma succedesse un po' quello che è successo tra operazione politica e giudiziaria ai danni di Mimmo Lucano. Per noi a Riace c'è ovviamente un redattore che è anche sportivo sui 103 e 100, ma facile stare, come dire, commentare come fanno i telecronisti sportivi seduti in tribuna d'onore. Noi li abbiamo mandato sul campo anche a giocare, vero Piero? Sì, buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ovviamente sono qui in duplice veste, sia come atleta, come giocatore della squadra del progetto Ultra, che ovviamente anche per raccontarvi un po' questo approdo dei mondiali antirazzista per la prima volta qui a Riace, appunto in questo modello, nuovo modello un po' itinerante, che appunto ha visto questa prima parte a Bosco Albergati, poi ha anche altre puntate a Prato, del Bresciano, poi più avanti a Firenze e ovviamente l'epicentro qui a Riace. E naturalmente è un approccio, fra l'altro stanno arrivando, si comincia oggi pomeriggio con alle 15 proprio con l'inaugurazione, poi alle 16 cominceranno le partite, stanno arrivando anche questa mattina insomma le varie squadre, quelle che sono partite da più lontano, anche dall'Emilia con autobus. Sì, ci sono stati quattro pullman, se non sbaglio, sì, da Bologna. Sì, quattro pullman di cui appunto alcuni stanno arrivando proprio, sono attesi tra pochissimo, sono già sulla statale ionica e stanno arrivando. Qui naturalmente c'è stato tutto un lavoro di preparazione abbastanza non semplicissimo, anche un po' faticoso, nel senso che si gioca in campi che sono stati ricavati, diciamo così, un po' all'inizio del paese, quindi diciamo non esattamente erba vellutata alla brasiliana, ma insomma un terreno duro per squadre insomma che abbiano voglia di battere il terreno. Tra l'altro non ci sarà solo il calcio, ci saranno anche tornei di pallavolo, di basket e di beach rugby, questo al mare, nella marina di Riace, dove appunto si svolgerà il torneo di beach rugby. Naturalmente fra l'altro in una città, appunto Riace, che così guarda un po' un po' sorpresa insomma tutto questo movimento che sta animando appunto la città. Naturalmente la città che si interroga, ovviamente si sta interrogando anche insomma su questi passaggi che sono stati molto anche difficoltosi insomma negli ultimi tempi, ma non c'è dubbio insomma che questo mondiale antirazzista sia una bella scarica in qualche modo anche di energia, perché ovviamente non ci saranno solo le partite, fra l'altro le partite ricordo che solo quelle, come un po' tradizione mondiale antirazzista, quelle oggi e domani saranno partite appunto di 20 minuti, poi andando avanti dopo la fase a gironi si tireranno solo i rigori per arrivare poi alla finale di domenica. Ma dicevo, non c'è solo calcio, perché c'è anche molta musica. Questa sera alle 21 è previsto appunto nell'anfiteatro di Riace un incontro dove ci saranno tutte le squadre e ovviamente ci saranno anche molti momenti di musica. Il clima insomma è decisamente molto molto molto carico insomma, quindi c'è grande entusiasmo, anche perché appunto è una prima volta per i mondiali antirazzisti, che in qualche modo insomma hanno lanciato una scommessa, e ovviamente adesso è una scommessa che va giocata. Ovviamente non dobbiamo immaginarci i mondiali antirazzisti come appunto le vecchie formule, come a Bosco Albergati, una manifestazione sola, quindi anche le squadre che si fronteggiano sono un po' di meno rispetto al passato, perché si sono un po' distribuite fra questi due appuntamenti. Sì, è ovvio che questo va decisamente contro la grandeur delle grandi delle Olimpiadi mondiali, che si stanno gonfiando sempre di più, stanno diventando insomma dei grandi, dei mega contenitori, e invece questo, come dire, questo effetto distributivo di rete che invece la strada che i mondiali di razzisti stanno scegliendo porta nella direzione opposta. Però comunque ci saranno più di 60 squadre appunto in arrivo, alcune arrivate ovviamente già, e altre insomma che stanno proprio in questi momenti arrivando dall'Italia, ma non solo, perché ci sono squadre dalla Germania, dall'Inghilterra, dall'Austria, dalla Francia, insomma da tanti paesi europei, come tradizione nei mondiali interazzisti. Questo non manca, questo sapore e questa nota insomma di apertura, di collegamento tra paesi e squadre appunto di paesi anche diversi. Naturalmente ci saranno fra le squadre, ci sono anche molte squadre formate da ragazzi degli SPRAR di varie città d'Italia, ovviamente sia della Calabria ma anche dell'Emilia, anche da Torino, quindi come dire insomma anche la matrice delle squadre che partecipano in qualche modo si sposa quello che è un po' il progetto e l'intenzione di quest'anno. Certo, ecco, i mondiali antirazzisti in questi anni insomma ci hanno fatto vedere chiaramente che lo sport può essere usato come strumento ovviamente per l'antirazzismo, ma non solo, anche per altri temi sociali. Penso all'antisessismo nello sport e forse, come dire, anche l'interesse, no, che è stato riscoperto in Italia per i mondiali, invece quelli diciamo ufficiali femminili, un piccolo contributo forse l'hanno dato anche i mondiali antirazzisti, ma anche l'ecologia. Sappiamo che appunto l'impatto che produce una manifestazione di questo tipo cerca di essere mitigato da alcuni accorgimenti, e quest'anno a Riace anche il turismo responsabile. Tu dove alloggi, Piero? Io alloggio responsabilmente a casa di un nostro amico che è originario di queste parti, ma effettivamente ci sono molte strutture che appunto sono state messe a disposizione con prezzi politici, insomma, prezzi assolutamente politici e inimmaginabili da un punto di vista, come dire, di tabelle e di tariffe turistiche. Oltre ovviamente poi alle varie forme, no? Nel senso che sono disponibili appunto molti, sia la possibilità, c'è la possibilità di andare in appartamenti, ma anche ovviamente in alcuni campeggi che sono stati predisposti e allestiti, quindi le forme sono molte, e ovviamente quest'anno questa forma, come dire, questo tema del turismo responsabile in un luogo appunto come questa zona della Calabria Ionica, che è una zona meravigliosa e quindi è assolutamente anche da vedere, da scoprire, da visitare appunto in un modo che in qualche modo che in qualche maniera fa parte di un progetto che è complessivo appunto, che i mondiali antirazzisti portano avanti. Così come dicevi, ci sono ovviamente anche molte squadre femminili, come tradizione appunto, come i mondiali antirazzisti hanno da molto tempo insomma propugnato, quindi e credo che sia un buon risultato vedere come alcuni segnali che sono stati lanciati in questi anni in qualche modo stanno trovando in varie forme appunto una qualche ricezione. Certo, allora io, Piero, io non ti trattengo oltre, intanto ti ringrazio per questa prima corrispondenza, poi ovviamente ci sentiremo in questi giorni per sapere come prosegue. Sicuramente sì, poi un altro collegamento sarà sicuramente alle 14:30 in Scusa Meri, a ridosso dell'inizio. Dell'inaugurazione, certo, certo. Grazie mille. Va bene, un saluto da Riace a tutti. Grazie allora a Piero Di Domenico, che si trova a Riace per i mondiali antirazzisti. Noi andiamo avanti con